pu 10? Buonasera. Chiamate? Ci fu canale 10? Buonasera. Chi sei? Io. Ma sai che cambio radio, se non riesco a capire, scusami un po'. Vabbè, aiuto. E Eugenio, tu sei? Sono io, buonasera. Come va? Bene, oggi però ti sto ascoltando con un'altra radio, con un'altra parlata di mezzo, non ti avevo riconosciuto, perché i segnali sono tutti sballati, aspetta che cambio radio, scusami un attimo. Eccomi qua, ci sei oggi. No, ma è un attacco, già, andate, faccio il cicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic sono sceso un pochettino più in basso, ma 9,20 stanno arrivando americani, c'è tutta la zona aperta, perché c'è la cosa delle macchie solari, la propagazione, ci sono dei segnali da paura, fortissimi. Sì, anche qua, molto volte qualcuno sale anche a 9. E meno c'è, cosa stai combinando? Nulla, oggi a casa. Ma stai lavorando? No, oggi no. Ormai siete a rilento, diciamo, l'attività quando è che inizia? Da Pasquetta in poi, dai. Ma che cattivo tempo, oggi, domani è domenica. Sì, ma dico, ancora passeggeri non se ne vedono, tu dici, da Pasquetta in poi, diciamo, da aprile inoltrato. No, qualcosa sta già vedendo, Qualche campo in più, qualche macchina in più, qualche moto stanza. E il capo ci sta uscendo? Diciamo di sì, quando lavoro permettendo. Vabbè, tu c'hai il riscaldamento con l'aria condizionata, già non hai problemi. No, io ho la stufa, le classiche a gas, ma non mi frega niente. D'inverno sono andato mi qualche volta a fare un girettino, anzi quest'anno niente, ma è capitato, ma non a dormire no. Però adesso come iniziano la bella stagione, cambia l'orario, qualcosina di più si fa, dai, riprendi oggi. Tutto il campo, giusto? Aspetta, sta completo, ok, avanti. Ciao Giovanna, mi sentita, superi 9,20, quasi 9,25, modulazione molto pulita, chiara, perfetta. C'è anche Eugenio, ti lancia lui che è un po' più lontano di me, rispetto a te, per cui vediamo un po' cosa ti dice. Eugenio, l'hai ascoltata Giovanna? No, negativo, Giovanni o Giovanna, non ho capito, non l'ascolto, vero, non lo so. No, Giovanna, l'hai ascoltato Eugenio, Giovanna? Eugenio, non mi sentite stranamente, ma in che zona sei tu? No, Giovanna, in che zona? La sorella Giovanna, quella che, diciamo, la sorella di Antonello sei, se non sbaglio. Ma tu sei dalla posizione dove c'è Antonello o un'altra zona? E come stai arrivando così bassa? Noi siamo vicini attaccate, ma dovresti arrivare almeno 9,40 qua. Ma cosa c'è, un'antennina allora devi avere tu? Allora per quello, perché Antonello arriva a 9,60 qua, vabbè lui c'ha la mantova, un altro discorso, però pensavo che magari ti fossi spostata di zona, per cui siamo abbastanza vicini, perché io sono un po' più in giù di Antonello, dai, e per cui per quel motivo non ti ascolto Eugenio, probabilmente già tiro, cioè qua sei fortissima, però dovresti essere molto più forte, probabilmente con l'antenna non sta funzionando come dovrebbe. Eugenio, avanti di nuovo a te. Buonasera Brecco, Gavino qua, sono andato per salutarvi, ciao Eugenio e ciao Roberto, dai, tutta la flussione. Ah, ciao Gavino, c'è anche Eugenio, ascolti Eugenio. Sì, lo copio, anche alla grande. Ciao Roberto, ciao Eugenio, la flussione. Entra, saluta, c'è stata la cosa che si innalla. Ciao Gavino, buonasera, ciao anche a te. Stai dicendo Roberto, no, non la sento a questa Gavina, è la sorella di Pomponio, va. No, se poi Pomponio arriva forte qua. Vabbè, ma sta uscendo con un'antenina, si chiama Giovanna comunque, con un'antenina molto piccola. Gavin, se ci sei dopo io sono qua, poi ho chiamato anche la vita e fuggito. Vai, vediamo se c'è ancora Giovanna, avanti. Capa, ben sentita, dopo tanto, dai. Ok, ti saluto anche da parte di Eugenio, che lui non ti ascolta, non mi sentite. Vai Eugenio di nuovo. No, negativo, salutala, se mi sente, non lo so. Comunque, qua da queste parti a produttore zero. Ma Gavino lo ascolti bene tu invece, Eugenio? Sì, a Gavino nessun problema, ha voglia. E Eugenio, Gavino c'ha una bella postazione e deve ancora migliorare le cose. È più forte di me sicuramente ti arriva, lui è un po' più favorevole se non sbaglio, no? No, arrivi più forte tu. Davvero, non lo sapevo, dai. E l'altro, Claudio, quello lì è quello più forte di tutti, è fianco a te, no? Ma di poco, cioè, il segnale, dai, super giù siamo lì. Claudio, chi? Claudio, vicino a te, dai, quello che riporto a Torre. Ah, sì, lui è praticamente, le nostre aziende sì, lui arrivò a forza, fortissimo. E poi chi c'è rimasto? Di Porto Torres ce n'era un altro, non sbaglio. Beh, ce ne sono altri due, Luca. Luca che c'era da quando lui oramai parla solo radio amatoriale, solo parla delle radio amatoriali, e poi Emiliano che non entra quasi mai, perché ce l'ha su, c'è la postazione su in canti su in Mansarda, non sale quasi mai Mansarda. Ce l'ha già aspetto un anno quel coso, col 4,40. Adesso quando lo prendo io glielo faccio funzionare, va. Forse è meglio perché si rovina, il 4,40 se lo tieni fermo non è come per dire l'8,50, non è delicato come l'8,50, però lo devi fare andare, i condensatori perdono, vanno in perdita e poi ci vogliono soldi per sistemarlo. E poi c'era anche Mario, tuo stesso paesano, però ha preso la patente. Ah sì, sì, Mario, sì, c'è anche Mario, è vero. Mario l'ho visto anche da poco, io stavo andando a lavorare, ero in moto, mi sono fermato, era in giro a piedi con un portatile, facevo quattro chiacchiere sulle bande amatoriali, radio amatoriali. Ci siamo conosciuti di persona perché mi avevano chiamato con la sezione di quelli del Porto Torres, se gli davo una mano per una lezione, sono andato e ci siamo conosciuti perché c'è una voce inconfondibile, l'accento cos'è, emiliano mi sembra lui, c'ha, no? Lui di Sassari, però praticamente ha fatto una vita a Bologna. Bella persona Mario. Assolutamente, molto, molto in gamba, un piacere molto molto ascoltarlo, diciamo, con tutto quello che ci siamo ascoltati, molto educato, rispettoso, veramente una bella persona da ascoltare. E parliamo qua, naturalmente ci siamo sentiti anche in mano della radio amatoriale, per un attimino si stava sistemando la stazione, però è una persona veramente piacevole, dai. E poi chi c'era? Il Porto Torres, però uno forse era morto, chi era? Silvestro, lui era. La bonema di Gianpaolo, via. Gianpaolo era il mitico del canale 12, il canale Porto Torres, che purtroppo è andato a morire, il canale, e purtroppo anche Gianpaolo. E purtroppo la gente, molti sono morti, molti hanno mollato. Noi eravamo sul 12 tantissimi anni fa, negli anni 90, 89-90, eravamo sul 12 e si faceva fatica anche a parlare, perché eravamo talmente tanti. Me lo immagino, ho sentito qualcuno chiamare, avanti, chi vuole entrare qua su 10? C'è una propagazione, se no c'è il QRM, è tutto bene di chiamato, mi sembrava Mirko D'Alghero, anche Mirko si ha preso, tre cose a Mirko, si ha preso anche lui la patente. Anche lui, e a fine della 27 morirà, la 27 morirà, andrete tutti sulle bande radioamatoriali. Ma guarda, io entro spesso, poi quando ci sono persone in gamba, sempre un piacere, con Gavino ci facciamo belle chiacchierate, quando ci sei tu non c'è problema, quando c'è Carlo, cioè ce n'è bella gente, dai. E molte volte magari sono argomenti che non mi interessano, che stanno parlando di fatti loro, non entro neanche, però tengo molto spesso acceso, vediamo un pochettino. Come noi abbiamo il 525, 145, 525 monito di frequenza, ma anche di lì molte volte c'è un po' di gente, altre volte è tutto morto. Io già mi diverto in altre bande, per cui non rimango mai fermo, diciamo, c'è sempre qualcosina da operare. Ok, lasciamo un secondino di bianco, chi vuole entrare, avanti qualcuno, se vuole entrare sul 10, se no riprendi tu Eugenio. Ciao, ci sia Gianni nel suo room, ma adesso sta dando al canto. Gianni, ci sei in cambio? Stamattina ci siamo sentiti con Riccardino, mi ha telefonato, l'altro giorno è passato in officina, deve entrare quando vuole, stanno vendendo, si chiama un po' di apparecchiature che non utilizzano, se ne tengono qualcuna di scorta, infatti è inutile tenerle ferme, quei soldi che recuperano li utilizzeranno per altre cose. Troppo tovo Riccardino, perché è cresciuto un bene in altezza pure. L'ho sentito l'altro giorno al telefono, mi stava chiedendo informazioni. Ieri sera mi ha chiamato, l'ho sentito per telefono. Noi siamo i padrini, io, tu, Fabrizio, l'abbiamo sempre trattato bene, anche gli altri, però quelli che proprio l'hanno battezzato, dai, il primo sono stato io, poi Fabrizio e tutti gli altri, però con te, con me, con Fabrizio lui lega molto, infatti me lo dice sempre, siete i più, non per vantarci, i più simpatici, dove si può fare un QSO, lui dice, l'unica persona che posso, poche persone che posso fare veramente un bel QSO, ed è un bel complimento. Sei in gamba, non è cardito. Entra, entra, entra. Poi detto che esce un po' impegnato anche con gli studi. Adesso devi stare attento a non le vedi, perché di lì se fai male ti crepano, ti bruciano e devi recuperare nel periodo estivo, visto che loro vanno sempre in giro col camper, eccetera, eccetera. E lì mi la moto usando la Tae oggi. Forza, ce l'ho anche oggi in giro in moto. Devo sempre salire in officina per farlo fare sempre quel preventivo. Non so un attimo di tempo qua. La mattina ero in giro però per fare commissioni. Sono in giro in moto. Per fare commissioni, ripeto. Sono abbastanza di sei passato. Passa quando vuoi, non c'è problema. L'altro giorno, mi pare, avanti ieri, quella di Cheyenne, lo conosci Danilo? È ancora in strada è Danilo. Ha fatto un problemino leggero, niente di più, sul serbatoio con quello, che cos'è il modello suo, quella, ricordami? La Springer. L'avevamo fatta tanti anni fa, poi ha preso un colpettino sul serbatoio e è riuscito a poter recuperarlo senza verniciarlo completamente, cioè gli ha dato solo quel ritocchino e poi gli ha dato trasparente a tutto ed è riuscito a recuperarlo. Allora Daniel è topo, bravo ragazzo lo stesso, è stato per un anno mio compagno di scuola, è un artista veramente affermato pure. Ma cosa sta facendo adesso? Prima io l'ho lasciato che faceva disegni per fare i tatuaggi. Per quanto le sue sta facendo ancora quello, poi non so esattamente, sta facendo altro, però lui su quel coso lì è bravo. Sì, io lo so che era bravo, molto bravo disegnando. Da un po' che non lo vedo, da un po' che non lo vedo. Dimmi tu te ne è rimasta una sola, di moto ne hai sempre due. No, ne ho sempre due, una non si tocca. Una il chopper non si toccherà mai, perché da poco me l'hanno chiesto. Mi hanno detto di fare il prezzo che me l'avrebbero pagato quanto volevo io, non l'ho dato. Tu dili 100.000 euro e non è così te lo toglierò addosso. No. Mi hanno fatto anche 16.000 euro, no, non l'ho dato. E il respone ancora ce l'ha? Non c'è il respone? Ah, sì che ce l'ho, sì, è una Puglia. Però questo non si tocca quello lì. Lo vorrei rifare, però ho mille cose da fare, mamma mia. Ne abbiamo un paio da fare, il 51, questo vecchio proprio, però è sano, però c'ha le scocche in alluminio, le hanno disintegrate, hanno fatto delle modifiche, infatti ho detto cerchiamo le due quando ci sono i mercatini, due migliori, perché se ti metti è un macello, perché vanno, ne manca un pezzo, sono spaccate, le reverse le hanno forzate e le hanno messo delle piastre in lamiera con dei rivetti, una cagata mondiale e basta, poi me ne hanno portato un'altra ancora e poi abbiamo una Vespa 50, quasi finita, dai, la stiamo facendo, un Vespino 50. Però il Vespone tu, c'è il 25 o 150? Il mio è 125 originalissimo, 125 PX, 125 per arcobaleno, originalissimo, 125 originale, ancora la valuta originale, anche il mio è sano, però un po' di graffia, ad esempio, avevo comprato anche il 10 euro, ho pagato il parafango davanti, che lì l'ho sbattuto, ma è stata colpa mia. L'ho sbattuto entrando in garage e ho il parafango nuovo in garage. Avevo deciso di rifarlo poi tra una cosa e l'altra. Che colore è il tuo, Eugenio? Bianco. Il colore più bello, guarda, e io consiglio adesso questo Vespino era di una maniera di colore, alla fine gli ho detto fatelo bianco, per fare 50 special, infatti no, ma lo faccio bianco. Tanto c'è gente che si fa questi colori strani, ne aveva fatto due di arcobaleno, uno amaranto originale, bello però, quando era finito, nuovo, lucido, e poi un altro rosso, però bianco è il più bello di tutti secondo me. Sì, no, io rifacendo devo rifare bianco e basta. A cui è sempre, quando tu c'hai una moto originale, corrisponde il colore al telaio, eccetera, eccetera, un domani devi rivenderlo, ti danno anche una valutazione superiore, devi prendere la targa oro, eccetera. Sono sempre diverso che avere una moto raffazzonata, modificata, io poi sono di quelli che sono contrario a fare modifiche, a mettere marmite particolari, mettere i pezzi, tanto magari non devi fare moto, devono stare originali come sono nate. Se devi burriti, compare già la moto a corsa. Sì, no, infatti io, guarda, c'è un ticino originale. Rispetto a ancora il pentolino, se non gliene metto marmita non ne frega niente. Cambiando la marmita le rimetterei la marmita originale, il pentolino, diciamo, il classico pentolino come si chiamava. Rimetterei quello, non me ne frega niente. E certo che sì. E come è coso? Corrosione, le pedane come sono? No, sono sane, le pedane sono sane. Questo vespone era di un signore, di un vigile del fuoco di Cagliari. Ce l'aveva buffato in garage, in mezzo a tante scatole di cartone. Per levarlo l'ho dovuto aiutare a levare queste scatole di cartone, un casino, roba della caserma, dei fogli, di cose, documentazione. E sotto c'era lui, era marrone dalla polvere. Di che anno è? Dell'83. 83? Francobaleno. Francobaleno, sì. Perché 85, non lo ricordo, forse 85. No? Più probabile 85, 83 mi sembra strano. Allora 85. No, è sempre bella, una grande moto. Il Vespone poi è una moto eterna, no? Non passerà mai di moda, come le Vespe precedenti, eccetera. Tu per dire ti compri una Yamaha o una cosa. Dopo 6-7 anni sono già vecchi, il Vespone è eterno, quella linea lì tra 50 anni è sempre bella. Poi anche la sella originale, le chiavi originali, è tutto originale, non ha niente di che non sia piaggio, è tutto originale. Ma dimmi una cosa, da dove l'hai preso questo? Come? Dove era questa moto? A Cagliari, anche la targa, targata CA Cagliari. Sono andato col camper a vederlo e me lo sono preso. E dove l'hai trovato? Cioè, come hai fatto a trovarlo questo? Su internet. Tu l'avevi pagato anche poco, mi pare, no? Sì, avevo pagato una cazzata, 1.500. Vai a comprare adesso tu i Vespone in buone condizioni, si parte dai 3.000 euro in su. Ma io lo uso praticamente sempre, perché vado a lavorare in un Vespone, sempre assicurato. Vado a lavorare col Vespone, lo metto in camper, poi col camper con mia moglie scegliamo, giriamo, sempre col Vespone. Quindi lo tengo bene, capisci, lo faccio girare, non lo faccio a muffire in garage. Capa, ma qua c'ha le cinghie, lo blocchi con le cinghie nel garage? No, io ho il portamoto interno. Non ho capito, c'ha il portamoto? No, il portamoto interno, nel garage, dentro il garage del camper, il portamoto interno. L'osso il tuo è gigantesco col camper, sì, no, dico di lusso. Poi ti devi fermare anziché uscire col barrasone, ti pigli la moto d'estate e ti fai girare dove vuoi, comodissimo. Sì, quest'estate eravamo a, vabbè, non me lo ricordo come si chiama il campeggio, ogni notte ce ne scendevamo a Tortolini, bellissimo, pieno di gente, parcheggiavo col Vespone, si faceva una passeggiata, tracomo di gente, bellissimo. Sempre così, sotto di Arba, Pax, se vuole partire abbiamo già tutto il moto, col Vespone. E io c'ero lì, quest'estate ero lì, se Dio vuole ci ritorno, a Tancao l'ho lasciato il camper. Dove? Santa Maria Novarese, lo conosce? Sì, Santa Maria Novarese, io ero lì praticamente. A fianco a Santa Maria Novarese, sarà in Italia, sono un chilometro, infatti ci andavo a piedi da notte se dovevo andare, che lì c'è sempre divertimento, Pancau si chiama, c'è un'area camper sulla spiaggia, cioè c'è la strada che divide l'area camper dalla strada, cioè dalla spiaggia, la spiaggia da paura, bellissimo, un posto fenomenale, io ci ero andato anni fa, è cambiato totalmente, cioè sembra un'altra città, veramente, poi ogni giorno c'è una festa di qualcosa. Ogni giorno della settimana, cioè il giorno della pecora, il giorno del tornone, il giorno di quello, delle cozze, cioè ogni giorno una cosa, una manifestazione per un posto tranquillo, i prezzi sono ridicoli, infatti se devo vuole ci ritorno, se è attaccata ad Armasca, a Tortolì ti devi prendere il gommone e devi andare a Calagonone, cose di Rubigli, anziché andare a Calagonone che costa un bel lì con la zona lì, se ne vai lì ed è un posto li fa 10 a 0 a Calagonone. Cacao, sì che lo conosco, sì, no, non l'avevo capito, sì, poi lì, vabbè, secondo me nella Varese ce ne sono un paio di campeggi, uno attaccato all'altro. Ah, poi c'è tutto vicino, cavolo, tu vuoi andare a mangiarti una pizza, ti vuoi bere un gelato, ti vuoi prendere un giornale, qualunque cosa, c'è tutto a... Io la sera facevo 500-600 metri a piedi, fai 800 metri, me ne andavo nella via, c'era sempre qualcosa. Poi nella via dove stavo io, lì proprio a Tancau, c'è una via che la chiudono al traffico due volte alla settimana, non so cosa, e ci sono le bancarelle, ti fanno anche musica, eccetera, è veramente bello. Poi c'è il coso sul mare, quel ristorante, è bellissimo, c'è più di uno, ti posso dire 10 lode di dopo il posto, tranquillo, rilassante, proprio se ti vuoi riposare è un posto spettacolare, non c'è brutto, perché secondo me vai, trovi un po' di confusione, di coso, quell'altro più avanti che c'è con le spiagge di, come cavolo si chiama, vicino a Tortulli, c'è una spiaggia che pare peggio di Alghero, vicino a Tortulli, no? Ciao, ti diciamo. E me ne sono fatto tutto con le spiaggette. No, oh, ma io me ne trovo, a me piace, se come viene la Varese, mi piace un bel. Facendo è bellissimo, e poi è pulito, ordinato, a me mi piace, guarda, un posto per come sono fatto io, la confusione, vedete, se vai zona di Sant'Eodoro, Calabrandini, bei posti, ma là stabili lì, cioè 2000 persone, non hai tranquillità, devi cercare un posto all'ombra, dove vedo io lo stavo di lusso. Poi la cosa più bella la sera, rilassato, ti vuoi fare una passeggiata, ti vuoi prendere un gelato, bellissimo, proprio tranquillo, non vera brutto, perché a me troppa confusione non mi piace, il mare è spettacolare, pulito, bello, la spiaggia è enorme, non c'è troppa gente, ho stato troppo bene. Di nuovo, Luce. Sì, lo conosco il posto, lo conosco. Ma che Tortulli non mi dispiace, tranquillo, chiudo la strada, c'è cioè la strada lunga, la strada principale, piena di gente, è bello, piena di musica, la grande, poi c'è il mio fatto preferito, quella di 50, l'hai visto? Sì, tutto bello, quello che c'è con le donne è tutto, perché è ancora un po' selvaggia, non è confusionaria come tutta la zona di Sant'Eodoro, Calabrandichi, tutta quella zona, Porto San Paolo, Porto Taverna, a me è un bel rimacello di lì, a me, ti ripeto, non va. Poi la cosa bella, se te ne vuoi addentrare nelle montagne, hai visto, ci sono tutti quei Villa Grande Trisari, cioè quei coso lì, ci sono quei paesotti, ogni tanto c'è una sagra, per dire, dell'agnello, del porcetto, del torrone, di qualunque cosa, ti avvicini di lì e sono paesini piccolini, molto caratteristici, ed è bello, ti puoi spostare senza fare troppa strada. E poi c'è mio cugino che lui a Cardedio vive di lì, infatti dice, mi vieni a qua, c'è il gommone, se ti vuoi fare un giro. Sta molto bene anche a, se me ne andato a Maria di Cardedio. E dove c'è mio cugino, di lì? Qui c'è una bella riassorta, è bellissima, non c'è niente, però è un tratto inglese grandissimo, e si sta troppo bene, puoi camminare scalzo, poi attraverso la strada c'è la spiaggia, il mare è bello. A me me l'ha detto un amico che lui ci va sempre, non è camperista, lui va per altri motivi, perché gli piace girare, poi se ne va tutte quelle zone dell'Oriatra, nel Kenya, su Gurupo, eccetera, eccetera, lui fa escursioni, mi ha detto vai a Tancau, cerca questa persona, è di lusso, sono stato troppo bene, poi bello per la gente, tranquilla, il tipo della riassosta, non è un camping vero e proprio, tipo se vai a Rosea, a Saprama, poi posti di Calaibelotto, sono dei camping, sui uno addosso all'altro, bello, quelli sono belli, però qua sei più rilassato, più tranquillo, attraverso la strada e sono già al mare, non devo fare niente di complicato, poi la sera ti vuoi fare due passi, te ne vai, proprio bello, sono stato benissimo. Lasciamo un secondino di bianco, se qualcuno vuole entrare, avanti, chi vuole entrare, se no riprendi tu, vai, vai. No, non ci sono nessuno oggi, con questa bufera c'è fuori, credo ci fosse più gente. Maestrale, ma mi ci dà, oggi si è fatto sentire, domani gira un po' a ponente, magari siamo un po' più riparati, però il maestrale ha tirato forte, ieri c'era l'imbriccio, c'erano 19 gradi alle 4 del pomeriggio al vialetto dove c'è l'ombra. Ma freddo non ce n'era oggi, c'era più che freddo c'era vento. Quello è il problema, le temperature erano su 18 gradi, però la percezione è perché c'è il vento, se ti metti in un posto magari dove tira non c'è sole lo senti di più, ma se ti metti in un posto riparato dove c'è il sole si sta benissimo, ma percettivamente è anche meglio, no? Ogni tanto una bletturina a pulire un po', ci possiamo vantare che il clima nostro è sempre pulito, l'hai sentito, la migliore città d'Italia come clima siamo stati, e ai livelli in Europa, non so, forse due o tre ce n'erano prima di noi, cioè abbiamo il clima migliore per pulizia dell'aria in Sardegna, Sassari in particolare. Ti volevo dire, ora voglio fare per cambiare il discorso, voglio fare la, la... la moto nera, nera metallizzata. Che differenza c'è tra il meccanizzato e il metallizzato? Allora, il metallizzato ci sono polvere di alluminio, c'è la base, con le polvere di alluminio sono tutti uniformi come grana, tu prendi in un cornino, ci metti la polvere dentro e sono tutte della stessa misura, mentre nel micalizzato, cosiddetto metallescente o perlaceo, anziché esserci queste polveri ci sono delle scaglie di mica, tipo il pesce, c'è presente le scaglie del pesce, che sono una diversa dall'altra, e fanno questi effetti metallescenti che a seconda della luce cambiano, ti danno questi effetti particolari. Però se vuoi un consiglio, nero, bellissimo, tutto quello che vuoi, ma devi stargli addosso ogni 5 minuti, un granellino di polvere si vede, per cui decidi tu bene. No, lo so, ma a me il nero piace troppo, a me come colore il nero piace troppo, poi sulla mia la fa molto elegante, molto molto elegante, capito? Perché poi la mia è la vita, è tipo metal flick, la mia. Per fare un altro colore metal flick, boh, sono colori che mi stufano. Quello è vero, sicuramente. Allora, la moto, l'unica moto che io direi dovendo la fare è di consigliarla, di farsela nera, tutte le altre no, è la Lirley, perché è l'unica moto che rende, dà un senso di eleganza, di imponenza, perché la moto è imponente. Se tu mi dici fatti una Honda, un Kawasaki nero, di grossa BC, perché poi c'è quel serbatoio dove appoggi, ti cade la benzina, ti metti le ginocchia ed è sempre sporco. Tu c'hai una moto salottiera, diciamo, dove ti siedi tranquillo e cammini, non è nemmeno quella moto, perché non abbiamo di mezzo, tra la moto e la macchina, con la moto lì. Hai visto quella di Nino che si è comprato, quello a fianco a lui, con la tre ruote, quella grossa? Ma il track non mi piace. Poi, vabbè, se riesci a farmi la stessa vernice del casco, allora faccio in quel colore, se no mi faccio la moto nera e vernice anche il casco. Ma perché? Che colore c'ha il casco? Il mio casco è un rosso metal flake, cioè è un bel lumine brillante, dove si ha il sole, luccica dappertutto, sai, qui c'ha quella grana grossa, poi vabbè tu lo vedi e c'è più l'occhio, quindi non so come spiegartelo, è un metal flake a grana grossa, diciamo. Sì, no, le conosco, quelli però sono il triplo strato, c'è una base per dire rossa, poi ci sono le perline che ti danno questo effetto tipo sale cadenti, cose così, questo effetto strano, e poi c'è il trasparente sopra. Sono bellissimi, però sono un po' difficili da riprodurre uniformemente, perché devi verniciarli tutti insieme, perché tu ti fai conto, quando stai dando il rosso, dopo li devi spruzzare questa polvere perlacea sopra, sono quelle polverine e coso, per cui devi stare un po' attento distendendo le gambe della stessa mano, perché se no ti trovi un colore completamente diverso da una parte all'altra parte della moto. Ma anche avvicinandosi, non so, sono deciso tra il colore del casco che mi piace troppo oppure il nero metallizzato, in modo che la metti al sole si vedono quei brillantini belli, eleganti, capito? È la grana grossa si chiama. Anche il nero metallizzato mi piace parecchio. Vabbè, colori si possono fare qualunque genere. No, nero, diciamo, io le moto nere le sconsiglio perché sono delicate, però ti ripeto, l'Harley Davidson è l'unica moto che potrei dire sì, va bene, perché rende parecchio, siccome è una moto imponente. Quella di Nino è nero metallescente, con l'amico mio, con le altre ruote, ti colpisce, poi quando è tutta pulita la metti al sole, cacchio, sembra uno specchio, riflette tutto. Poi la mia, essendo tutta cromata, avendo tante cromature, col nero risaltano ancora di più, capito? Soprattutto se è il nero metallizzato. Sì, assolutamente d'accordo, poi c'è tutto il motore, tutto lucido, coso, gli scarichi, rende parecchio, stacca molto. E anche per quello la voglio fare nera, perché poi io la tengo bene, capito? Quindi anche quando esco, prima di uscire, sempre la passata di straccio, gliela do. Ma dimmi una cosa, se devi fare la moto così devi trovare uno che te la smonti però a me. Io già lo so, la smonto io. Ma il telaio che colore ce l'hai tu? Nero. È nato nero con la moto? Sì, è nata col telaio nero. Nero opaco così, per cui lascia il telaio nero e tutto il resto è serbatoio. Cos'è il doppio serbatoio con la moto? No, è un serbatoio unico. È grande ma è unico. Il telaio non si vede, è tutto coperto. sotto dalle carene, dalle Porsche, non si vede niente. Sì, ma voglio dire, l'ho preoccupato nel senso, c'ha due emissioni carburante, due tappe e uno solo, eh? No, ne ha solo uno al centro. Quelle lì che abbiamo fatto del 26, quella non so se l'avevo fatta vedere, quel restauro molto ma molto impegnativo, quella aveva due serbatoi speculari e c'aveva due cose, con due tubi di mandata, in modo che definiva uno e poi passava all'altro, una cosa bellina, tutta particolare, per metterla in moto con la moto, guarda, io penso che poche persone, a meno che uno la conosce al mondo, riescono a prima chita a farla partire, è una cosa allucinante cosa devi fare per far partire. Poi c'è l'acceleratore al contrario, c'ha due acceleratori con la moto. Sì, sì, la conosco, la conosco. E quella, l'altra gamba proprio va su due battuti. Quell'altra gamba è proprio la nera, l'altra, il cioè, sai, c'è una gamba due battuti. Adesso ne ha solo uno, piccolo, bello. E oggi io vado a mangiare qualcosa, poi se ci sei vai ci sentiamo dopo, che sta languorando lo stomaco. Vabbè, se non ci sentiamo, vai, già ci vediamo, non forse settimana se ce la faccio a salire, così vediamo un po' quanto ci vuole. Ok, vai, buona cena, ci sentiamo dopo, se ci sentiamo. Ciao, ciao. Ciao, Gio, sta bene, buon tutto, ciao, ciao, anche buona cena a te. C'è qualcuno? Attenzione canale 10. Ora? Che avete? Che avete fatto? Chi sei? Se ti fai riconoscere. Chi sei? Che cosa? Zio Franco. E chi è Zio Franco? Non sono io. E tu chi sei? Chi sei? Tu sei? Io sei. Chi sei? Non ho capito, Giovanni. Non ho capito chi sei, fatti riconoscere. Poco fa l'ho sentita in radio, ma non ci conosciamo in persona. Ah, ho capito, adesso sì. Perché poco fa c'era Giovanna, tua mamma è Giovanna sarebbe. Ho capito, quel bambino piccolo chi era? Così, infatti ho detto, non riuscivo a capire se era qualcuno che stava facendo la voce da bambino o se era effettivamente un bambino, invece è proprio un bambino piccolino. Giovanna, Giovanni, sì, sì, 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. Giovanna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. Ora, ora, ora, prova. Chucucciù, chucucciù, chucucciù, chucucciù. Damn, Cajun chicken and broccoli Alfredo, boy, that was good. Yeah, they look good, though, I'm not fond of. Hola, CQ10, CQ canale 10, hola, attenzione canale 10, c'è qualcuno? Hola, CQ10, c'è qualcuno? Hola? Hola, hola, hola, hola, prova. Hola, hola, hola, hola, hola, hola. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, 4, 5, 6, prova. La verità andare. Ciao ciao Antone. E io attaccato, ciao ciao ciao, al prossimo. Vabbè, ci va. Adesso, vabbè. Devo iniziare a vedere. Vediamo. Vediamo come a un certo punto. Secondo me cambiano le cose. Adesso vediamo un po' se c'è un coso, un lasso di tempo che si possa installare l'antenna, tac, siamo a posto. E vabbè, adesso si è tappata più che altro, capito? Anche l'altra parte, quindi. Però se io stacco questa parte, non sai come sono, ti ascoltavo tutti, ti ascolto. Però io ti ascolto bene, la verità, E sei perfetta, grazie a Dio, non finisci da niente, sei proprio tranquilla. Per dire, sei perfetta. Quindi figurati tu. Quindi a un certo punto. Vabbè, quest'ora cosa vuoi avere? Siamo molti a quest'ora. Oia. Per carità. Spero che voi, anzi, spero, domani mattina che non ci sia vento. Ora, se vi è sopra, prima la potrei attaccare l'antenna, così almeno sei tranquilla, a posto. E domani vediamo un pochettino come la mettiamo, ci vediamo un po', piano piano, quindi, proprio un buon passaggio, sei 9.50, senti, proprio tondo, 9.50. Ciucu, lo so. No, ma ti facciamo il coso, ti facciamo domani, non ti preoccupare. Ti faccio io il coso, non ti preoccupare. Domani mattina. Appunto. Sì. Tranquillo, non c'è problema, non ti preoccupare. Quindi poi io e ma e nonna ci preoccupiamo noi due, facciamo O1, O2, O3, O4, O5, 10 non posso proprio, ma comunque sia O5 o 7, se quello che sei. Ok. Sì, dimmi. Sì, senta, voglio. Cosa hai detto? Ho capito. Ho capito che ho fatto che cazzo so io. No, o lui. Boh. No, io intanto che mi faccio. Aspetta, mi sembra aver capito che io mi faccio la caccadosa, poi eccetera, eccetera. Dopodiché. È strano, la verità. Comunque sia. Non c'è problema. Adesso capi. Non ho capito niente poco fa, la verità. Non ho capito proprio niente. Adesso ho capito. È arrivato Erasmus. Co, sta arrivando Erasmus. Si è fregato. Hai visto? Così come dicevo io. Si sta addormentando. Che va. Io no, certo Dio. Ciao qua, siamo qua, non ti preoccupare, dimmi tutto. Ciucciù, ciucciù, ciucciù. Sì, sì, sì, sì, non ti preoccupare. Tranquillo, siamo qua, mi, lo sai, tu, io sopra e tu sotto. Qua so, non c'è problema. Meglio così, meglio così. Cucù, c'è nessuno. Sì, dimmi tutto. Ho capito niente. Dimmi tutto. Lo so che ti voglio bene anch'io, però dimmi tutto dall'inizio, come hai detto tu. Piano piano, dimmi tutto dall'inizio e basta. Piano piano. Ho capito. Ma cosa ha detto? Ah, Scooby? Ha letto, Scooby, Tobi, più che altro, lo Scooby. Dimmi tutto. No, non è così. Aspetta un secondo. Dove hai giocato? la bella e se vediamo là un pochettino. Non dipende da me la vita, se lo trovo, per quello non ci sono problemi. Sei arrivato subito, 2 minuti. Come no, no, no, no, no, no, no, no, no, non è possibile, no, no, no, no, no, no. Giulio, cerca di farla bravo, mi raccomando, lo sai, sì? Va bene, ok, ma se tu fai la bravo domani, va bene? Va bene, sì o no? D'accordo, facciamo così, ok, adesso vai il microfono a nonna e nonna si lancia, va bene? Chu ciao, sì. Intanto io sono qua e poi si vedrà. Oh, bo, bo, bo, bo. Bene male. E ora chiudiamo tutto. Basta. E siamo a posto. Sì, sì, ho capito. No, no, no, no. No, no, dimmelo tu. No, no, no, no, dimmelo tu, guarda. Perché non è possibile, cara. Oh, mamma mia. Sì. Che c'è, che c'è? Hola.